Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Come già vi anticipavano i nostri GR, la vicenda Ilva si complica, e forse è anche un eufemismo, mentre continua la protesta degli operai. Qui di questo ci occuperemo subito in apertura. Ci occuperemo anche delle regioni italiane, non solo per la, ahimè, quotidiana rassegna degli sprechi, delle inefficienze delle regioni, di alcune regioni, ma anche e soprattutto perché la conferenza delle regioni ha approvato intorno alle 2:30 all'unanimità una proposta di tagli che presenterà alle 18:15 al Presidente della Repubblica. Lo ha confermato il Presidente della conferenza delle regioni Vasco Errani, però anche qui non abbiamo capito quali siano questi tagli. Tra l'altro speriamo che non siano tagli cosiddetti lineari, perché come poi racconteremo, ci sono regioni che hanno un costo per abitante, cito la più alta, l'articolo di oggi sul Sole 24 Ore di Gianni Trovati, la Sicilia ha una spesa di 205 euro per abitante. Ci sono regioni che obiettivamente, se si fa il rapporto spesa per abitante, che a mio avviso è l'unico che ha un senso, poi dentro bisogna vedere come si spendono questi soldi, ma è già qualcosa. Si scopre che per esempio la Lombardia costa 17 euro per abitante, il Veneto 29, l'Emilia Romagna 34, la Liguria 35, la Toscana 38. Invece chi spende di più per abitante, oltre alla Sicilia 250 euro, Molise 194, Sardegna 140, Friuli 140, Basilicata 94. Ora, e poi ripeto, ne parleremo nella seconda ora, se tutte le regioni adottassero una spesa standard per abitante, quindi in proporzione agli abitanti, sarebbero 64 euro. Basterebbe arrivare a 64 euro, cioè tre volte quello che spende per abitante, quella che è la spesa per abitante della regione Lombardia, per avere un risparmio di 1 miliardo e 300 milioni di euro l'anno. Ok? 1 miliardo e 300 milioni di euro, magari utile per politiche sociali, magari utile per politiche di welfare sulla disoccupazione e quant'altro. Sono 1 miliardo e 300 milioni di euro se chiudessero le regioni, se spendessero 64 euro per abitante in media, ossia, ripeto, tre volte la Lombardia o due volte quello che fa il Veneto o anche due volte quello che fa l'Emilia Romagna. 349-238-6666 per i vostri sms. Parleremo chiaramente anche di borse, perché la vicenda spagnole e greche stanno facendo calare pesantemente Milano e Madrid. Madrid intorno al 4%, Milano meno 3,30%, Parigi meno 2,5%, Francoforte meno 2%, Londra meno 1,70%, con un euro che è sceso a quota 1,2845 nei confronti del dollaro. E allora rapidamente le altre notizie in breve. Vedo già alcune critiche sugli sms. No, non abbiamo detto che non vanno bene i tagli, ci mancherebbe, anzi abbiamo appena ricordato che se tutte le regioni si allineassero a una spesa media di 64 euro per abitante avremmo un risparmio di 1 miliardo e 300 milioni. Ho solo detto, non sappiamo che cosa c'è in questa proposta di tagliare i fondi alle regioni, e vorrei capire se è un taglio lineare, a mio avviso sbagliato, perché vanno premiate le regioni più virtuose, e citavo il caso della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia Romagna, quindi chi se ne frega del colore della giunta politica, e invece vanno fatte ritornare su sentieri più virtuosi le regioni che non lo sono. Restiamo sui mercati. Male oggi sono tornati a salire gli spread italiano e anche soprattutto quello spagnolo. In Spagna, adesso ne parleremo, c'è la Catalogna che ha proposto il referendum per staccarsi, diciamo, dalla Spagna, ma soprattutto c'è una stima della Banca di Spagna, un PIL in forte calo a luglio e a settembre, E poi gli scontri, 35 arresti e anche questa mattina 64 feriti, nuove manifestazioni annunciate per questa sera. Ripeto, la Regione Autonoma della Catalogna, tramite il suo presidente Artur Mas, ha convocato le elezioni per il 25 novembre per esercitare il diritto all'autodeterminazione. Secondo gli ultimi sondaggi, i sì all'indipendenza sarebbero una stragrande maggioranza. Pensate che solo il 15-20% dei catalani vorrebbe restare nell'attuale situazione. Nel frattempo l'Andalusia, e quindi Siviglia, sta valutando la possibilità di ricorrere agli aiuti destinati alle regioni e chiedere 5 miliardi di euro. Se a questo aggiungiamo il nuovo sciopero generale che ha paralizzato la Grecia in questo caso, visto che il governo ha varato un nuovo piano di austerità che prevede tagli per 11 miliardi e mezzo nel biennio 2013-2014, con scontri tra i manifestanti e la polizia anche a Piazza Sintagma, si capisce perché delle tensioni sui mercati. -6% il Banco Popolare, -5,80% UbiBanca, -5,5% Popolare Milano come la Popolare Emilia Romagna, -5,30% Mediolanum e Unicredit, -5% Intesa, -4,60% Mediaset e A2A, -4,30% Monte dei Paschi, -4% anche ST Microelectronics e Fiat, -3,90% Generali e Mediobanca, -3,80% Azimut ed Enel. Il 3,60% lo perde Buzzi Unicem, il 3,20% Telecom Italia, il 3% è il calo di Autogrill ma anche di Exor. Altre notizie di questa giornata sull'Italia: confermato nel mondo del commercio una caduta del 3,2% delle vendite a luglio rispetto all'anno precedente, al luglio precedente di un anno fa. Tra l'altro oggi il rapporto annuale dello Svimez sul nostro mezzogiorno, sul sud, ne parleremo in diretta, stima un calo del 3,5% nel 2012 e dello 0,2% nel 2013, quindi un calo dell'economia del nostro mezzogiorno più forte rispetto alla media nazionale, che dovrebbe essere intorno al 2,6%, stando alle ultime stime. Il ministro Passer però ha detto che il decreto sullo sviluppo, il decreto con le norme e le misure per lo sviluppo, arriverà entro settembre, anche se il provvedimento non figura ancora all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di venerdì 28 settembre, quindi dovrebbe arrivare, come si dice in gergo, fuori sacco. E il ministro Fornero ha detto che di aver chiesto all'INPS se fosse possibile accordare ancora più tempo per restituire all'INPS le 14esime erogate indebitamente, una vicenda di cui si è occupata anche Deborah Rosciani con Savadanaio. Dicevo, indebitamente a 200.000 pensionati. Lo ha spiegato durante il question time alla Camera. L'INPS ha deciso di dilazionare la restituzione dovuta, quindi non cancellabile, su 12 mesi. Ma io stessa ho chiesto all'INPS se non era il caso di rivedere, magari diluire ancora di più, la restituzione. Ho anche chiesto all'INPS, che peraltro si deve confrontare con l'amministrazione finanziaria dello Stato, di vedere se è possibile accorciare i tempi, perché per quanto i limiti della verifica siano nei tempi stabiliti dalla legge, che sono di 5 anni, e qui stiamo parlando di una verifica su 3 anni, ho chiesto, proprio per la sgradevolezza di vedersi richiedere richiedere la restituzione di somme dopo 3 anni, ho chiesto che fossero accorciati. L'INPS ha promesso che farà tutto il possibile e ha chiesto sotto questo profilo anche un maggiore coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate. E questo per quello che riguarda le pensioni. Vedo già molti messaggi sul caso Ilva, adesso ci arriviamo. Ho però qualche aggiornamento, purtroppo, sulle spese delle regioni, nonostante le promesse della conferenza delle regioni che verranno tagliati i costi, e al di là di quello di cui parleremo poi alle 18:15, cioè in realtà quanto si potrebbe risparmiare con una spesa più che accettabile, beh, c'è qualche novità invece nello specifico. Quindi, come sempre, ripartiamo con questa nuova rubrica di cui, ripeto, farei volentieri a meno, questo nuovo appuntamento, speriamo di chiuderlo il prima possibile, l'appuntamento sugli sprechi. Abbassare potrebbe più la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni potrebbe più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag blu, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, drag blu. Allora, la magistratura di Palermo ha avviato, come abbiamo raccontato, un'indagine sulle spese del Parlamento regionale e si starebbe concentrando sulla gestione dei cosiddetti fondi riservati a disposizione dell'ex governatore Raffaele Lombardo e del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Francesco Cascio. Ricordiamolo, perché insomma non è male, solo nel 2011 Lombardo ha avuto a sua disposizione 500.000 euro, così, con un incremento, perché giustamente c'è la crisi, no? È più 150% rispetto ai 200.000 euro del 2010, alla faccia della crisi. Francesco Cascio, invece, quest'anno ha avuto 342.000 euro, 38.000 euro in meno rispetto al 2011, e vabbè, meglio che niente. Però io vorrei capire perché il presidente dell'assemblea regionale deve avere come fondi riservati, scusatemi ma sono duro di comprendonio, 350.000 euro e il presidente della regione 500.000 euro? Cioè, se una delle spese le giustifica, magari, ma perché come fondi riservati? Cioè, che puoi spenderli fino a, puoi arrivare a spendere tutto il plafond? Io non ho capito perché. Cioè, fermo restando che le altre spese sono già pagate, autista, nota spese per le cene, attività di rappresentanza, voli, insomma, nessuno te le vuol toccare. Però perché anche un fondo riservato? E poi, in un'intervista alla Stampa, la domanda di come ha speso l'intero budget, perché l'hanno speso tutto. Io posso capire, tu hai il fondo riservato ma almeno non lo tocchi, no, l'hanno speso tutto, addirittura Lombardo se l'è fatto aumentare da 200.000 a 500.000 euro perché non gli bastava. Allora, alla domanda al presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Francesco Cascio, ma perché ha speso tutti i fondi riservati per 380.000 euro, Cascio risponde così: li ho spesi in assistenza e beneficenza, per la maggior parte. Qualche esempio: se c'è la processione di San Giuseppe al paese di Sant'Agata di Battiati, concedo un contributo. Se c'è un crocifisso da restaurare in quello di Trappeto, idem. Se c'è un congresso di livello, offro il buffet. L'anno scorso ho sostenuto il torneo di badminton regionale. Il torneo di badminton regionale. A volte una banda musicale. Sono piccole somme, da 1.000 a 3.000 euro ciascuna. Ma che saranno pure piccole, ma tutte quante messe assieme fanno 380.000 euro. E allora io invece avevo capito male, avevo capito che fossero sbagliati questi fondi riservati, che uno può gestire come cavolo vuole, perché questo lo dimostra, come cavolo vuoi, nel senso che li metti sia per il torneo di badminton regionale, per il crocifisso da restaurare a Trappeto, il congresso di livello a cui offri il buffet, la processione di San Giuseppe al paese di Sant'Agata di Battiati. Ho capito male, in realtà questi soldi del fondo riservato vengono utilizzati per fare beneficenza sul territorio, e allora chiedo scusa e diamo anche un applauso al presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Cascio, che appunto ha contribuito a che la crisi mordesse di meno in Sicilia. Abbassare potrebbe più la la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, tre che più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, tre che più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. E adesso veniamo a una chicca vera e propria. Devo ringraziare i miei collaboratori per questo, quindi Mauro Del Corno e Barbara Bianchi, che l'hanno trovata ieri sera. Tra l'altro, un piccolo dettaglio: in Calabria c'è una peculiarità. Pensate che un'apposita legge regionale del 2002 prevede che le spese dei capigruppo in Calabria, regione nota diciamo per come amministra in maniera oculata il denaro pubblico, non devono essere rendicontate, cioè tu li spendi, non devi nemmeno spiegare come cavolo li hai spesi. Certo, se poi mi devi dire che li spendi per la sagra, per il buffet del congresso, meglio non saperlo, ma cioè, c'è una legge apposta che dice che non le devi rendicontare. Ora, va bene tutto, a pensar male si fa peccato, ma ci si azzecca. Dicevo che i miei collaboratori hanno scoperto e trovato un pezzetto di una trasmissione di Tele Lombardia, perché non è solo il sud, sentite questa. Iceberg di ieri, il deputato del PDL Roberto Rosso, non uno qualunque, ex sottosegretario al lavoro del governo Berlusconi, tra l'altro rinviato a giudizio per un'inchiesta su presunti finanziamenti illeciti per la sua campagna elettorale, ha fornito una sua testimonianza sulle caste regionali. Ascoltata, lui racconta di cosa gli è successo quando ha avuto ospite un collega della regione Piemonte. Ascoltatela bene perché è incredibile. Io racconto una vicenda che mi è capitata personalmente. Ospito a casa mia, a Sestriere, un mio amico consigliere regionale. Non ce l'ho neanche. Questo qui vedo che tutti i giorni va a farsi firmare una cosetta, da un documento da un consigliere comunale di Sestriere. Non so cosa serve sta roba. Poi alla fine della settimana bianca questo qui mi fa capire che ha guadagnato 5.000 euro in più. E dico, ma come hai fatto a guadagnare 5.000 euro per aver fatto una settimana bianca a casa mia? E mi spiega l'arcano. Cioè, ogni giorno il Consiglio regionale del Piemonte paga l'indennità come se fosse andato a fare tutti i giorni Consiglio regionale. Per il fatto di essere andato a fare la settimana bianca a casa mia, ma essersi fatto firmare da un consigliere comunale il fatto di essersi spostato a Sestriere. Poi paga l'indennità di missione a costo chilometrico, cioè da San Germano a Sestriere e ritorno tutti i giorni. Quindi questo aveva guadagnato quasi 1.000 euro al giorno per essersi venuto a fare una settimana bianca a casa mia a Sestriere. Non so, se vi sembra normale una cosa del genere, che uno va in vacanza a Sestriere e si fa riempire il cedolino, spieghiamolo in maniera un po' banale, così ottiene diaria, rimborso per essere in esterna, 1.000 euro al giorno, fa una vacanza, ospite, 5.000 euro al giorno. Ma è normale questo? Pur nella regione Piemonte, che ha costi per abitante bassi, però questa dimostrazione che va bene il costo per abitante, ma anche come le spendi questi soldi. Intanto nel Consiglio regionale del Piemonte sembrerebbe esserci un accordo di massima tra le forze politiche per abolire le cosiddette autocertificazioni, che hanno consentito, appunto sta roba qua, che hanno consentito a consiglieri e assessori di intascare fino a 3.700 euro extra oltre allo stipendio base di 8.600 euro lordi. Non era sufficiente, infatti. Il bonus era garantito da gettoni da 122 euro che potevano arrivare a essere fino a 23 gettoni da 122 euro al mese. Ora verrebbe fissato un tetto massimo di 8 gettoni mensili, una misura che dovrebbe garantire risparmi per 1 milione di euro l'anno. Oh, tutti adesso risparmi improvvisamente, la corsa al risparmio. Meglio tardi che mai. In Veneto intanto, noi l'abbiamo data anche ieri questa notizia, i media continuano a concentrare l'attenzione su questi 2.100 euro che, senza bisogno di giustificare alcuna spesa, finiscono nelle tasche dei 60 consiglieri regionali ogni mese, aggiungendosi agli altri 7.000 euro lordi di stipendio base, alla diaria e ai rimborsi chilometrici per gli spostamenti. Allora, questi 2.100 euro, a parte il fatto che non ho capito perché li abbiano i consiglieri del Veneto, ma la cosa pazzesca, e diamo merito al Gazzettino, dal 1 aprile non compaiono più in busta paga, così non sono nemmeno più non fanno parte dell'imponibile, non ci paghi neanche le tasse. Praticamente è nero. Ora, presidente Zaia, magari lo richiamiamo, visto che la volta scorsa è intervenuto celermente per spiegarci che le auto blu non erano così tante. Ma su questo una spiegazione ce la vuol dare? In attesa che arrivi una spiegazione, il nostro invito, quinto potere, stendi il nume, e non solo questo. Voglio che vi alziate proprio adesso e andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più! Occupiamoci di cose serie, ripeto, non che queste non siano serie, però vabbè. Parliamo dell'Ilva, di chi in questo momento, tra virgolette, deve scegliere se ascoltare la magistratura, che va avanti, fa il suo lavoro ed è preoccupata sulle missioni dell'Ilva, e però o deve ascoltare il suo portafoglio e dire: io devo anche mantenere un lavoro. Allora, la situazione l'abbiamo spiegata molte volte in questo mese. Io penso, spero che si possa trovare un modo per non condannare gli abitanti vicino all'Ilva di Taranto a vivere in un ambiente che poi provoca tassi cancerogeni più alti della media, ma senza bloccare uno stabilimento. Se per spegnere un altiforno ci vogliono 8 mesi, quindi altrettanti per riaccenderlo, no? Fermo restando le colpe che se la famiglia arriva deve indagare la magistratura, però sarebbe bello che non ci finissero di mezzo gli operai, mettiamola così. Ma qui c'è uno scontro in corso di nuovo tra il GIP di Taranto, che Patrizia Todisco ha detto no al piano formulato dall'Ilva, quello che prevedeva 400 milioni di investimenti di interventi immediati per il risanamento degli impianti inquinanti, no anche al mantenimento di un minimo di produzione chiesto dall'azienda. I beni in gioco, scrive il GIP di Taranto Todisco, la salute, la vita, l'ambiente, ma anche il diritto a un lavoro dignitoso ma non pregiudizievole della salute di un essere umano, scrive appunto il GIP, non ammettono mercanteggiamenti. È sconcertante e inaccettabile la richiesta dell'Ilva di proseguire l'attività produttiva. L'Ilva ha sostanzialmente richiesto, scrive il GIP, l'autorizzazione all'attività produttiva non quantitativamente precisata, finalizzata alla sostenibilità e alla realizzazione del risanamento, ipotizzando un'inesigibilità economica. Problema che, secondo il giudice, spetta la stessa azienda a risolvere, perché rientra tra i suoi impegni, e ha anche respinto da Todisco la richiesta di rimettere in libertà sia Emilio che Nicola Riva, ex presidenti dell'Ilva, e di Luigi Capogrosso, direttore fino allo scorso mese di giugno dello stabilimento. Domenico Palmiotti, inviato del Sole 24 Ore a Taranto, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Dunque Domenico, qui il giudice è molto netto, no alla proposta dell'Ilva. Che cos'è che ha irrigidito così tanto la Todisco? Poi cerchiamo di capire invece lo scontro con Clini, con il ministro Clini. Il no del GIP Todisco arriva dopo altri due no, perché c'è già un primo no al piano dell'Ilva pronunciato dai custodi giudiziali alcuni giorni fa. I custodi giudiziali sono quelli che devono applicare la misura del sequestro, ma sono anche i consulenti tecnici della procura. Bene, quando Ferrante ha portato il piano in procura, il procuratore ha girato questo piano per una valutazione tecnica ai custodi, che sono degli ingegneri, e questi tecnici hanno appunto detto al procuratore e ai PM che questo piano era del tutto inadeguato. Quindi sulla base di questo responso tecnico dei custodi, la procura ha formulato il suo parere negativo, lo ha trasmesso al GIP, bocciando quindi l'istanza dell'azienda di una minima capacità produttiva, e oggi il GIP ha confermato questo giudizio di negatività che comunque la procura aveva già espresso qualche giorno fa. Tra l'altro, tu citavi dei passi del GIP, ecco, ne voglio citare un altro. Scrive il giudice Todisco: non può non rilevarsi con grande amarezza come tutti gli interventi proposti da Ilva nell'attuale istanza siano esattamente quelli facenti parte di due atti d'intesa adottati tra l'Ilva, la Regione Puglia, la Provincia, il Comune di Taranto e il Comune di Statte nel 2003 e nel 2004, e molti di essi dovevano già essere realizzati da diversi anni. Ecco, un punto su cui la Procura qualche giorno fa e oggi il GIP hanno insistito molto, è questo: gli interventi che l'Ilva ha presentato erano gli stessi interventi che ha proposto nel 2003 e nel 2004 e che non ha attuato. Per l'insieme di queste ragioni il piano è stato ritenuto non credibile e quindi da bocciare. Quindi il GIP dice, lato disco, siccome questa proposta l'avevate già fatta nel 2003 e nel 2004, io non vi credo, penso che, visto che la situazione secondo il GIP, secondo l'accusa, è rimasta identica, cioè non è migliorato, è migliorata di molto poco, non vi credo e vado avanti con la richiesta. Infatti il GIP dice sempre in questa ordinanza, parla di colossale presa in giro degli atti d'intesa e lo definisce un sistema ben rodato. minuti, dicevamo, sulla vicenda Ilva con Domenico Pogliotti, della posizione invece del governo rappresentata dal ministro Clini, che ha detto aspetto di leggere il documento del GIP, con il quale appunto è stata respinta la proposta dell'Ilva di un primo intervento urgente nelle aree dello stabilimento, e ha detto chiederemo comunque all'azienda subito il rispetto con 4 anni di anticipo dell'autorizzazione integrale ambientale. Noi stiamo completando l'istruttoria per rilasciare l'autorizzazione, la completeremo in questi giorni. L'autorizzazione avrà le prescrizioni puntuali per l'adeguamento degli impianti di Taranto agli standard stabiliti dalla Commissione europea e che dovranno essere rispettati a partire dal 2016. Noi chiederemo a Ilva di cominciare a rispettare questi standard adesso, cioè con 4 anni di anticipo. Aspetto di leggere il documento del GIP con il quale è stata respinta la proposta di Ilva per un primo intervento urgente nelle aree dello stabilimento più critiche, che come lei ha ricordato prevede investimenti per 400 milioni di euro, e mi auguro questa iniziativa non interferisca con la procedura prevista dalla legge, che noi intendiamo rispettare puntualmente e che stabilisce che il Ministro dell'Ambiente rilasci l'autorizzazione integrata ambientale. Dunque, per mettere i puntini sulle i, da un lato la chiusura dello stabilimento lascerebbe disoccupati almeno 5.000 operai, almeno, cioè quelli che lavorano nella cosiddetta area a caldo dello stabilimento. Dall'altro però, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, nelle aree vicine allo stabilimento l'incidenza dei tumori è del 15% superiore alla media, con un picco del 30% per il cancro al polmone. Superiori anche le malformazioni genetiche, congenite, scusatemi, più 15%, malattie respiratorie più 10%. Domenico Palmiotti, c'è l'altro fronte però che è rappresentato dagli operai che sono saliti sulle torri, e cioè da chi sostanzialmente è preoccupatissimo che alla fine gli impianti, quelli a caldo, perlomeno verranno chiusi. Certo, c'è una situazione che è in ebollizione, ma in ebollizione già da ieri sera, perché evidentemente il clima già percepiva questo verdetto negativo, e quindi ieri sera dei gruppi di operai sono saliti a 60 metri d'altezza sull'Alto Forno 5, che è il più grande dell'Ilva e uno dei più grandi, il più grande d'Europa, e si sono posizionati sulle passerelle, appunto, come dicevo, a 60 metri d'altezza. L'impianto sta marciando, sta in funzione, ma l'Alto Forno 5 è uno degli impianti che si dovrà fermare stando al piano dei custodi, e questi operai si stanno alternando a gruppi di 5 fra loro e stanno tenendo questo presidio fisso da ieri sera. Da questa mattina inoltre un'altra decina di operai è salita sul cammino E312, che è uno dei cammini campionati mesi fa per le rilevazioni della diossina, ed è a 30 metri di altezza, e hanno aperto anche degli striscioni in cui chiedono appunto il mantenimento dei posti di lavoro. Stamattina ci sono stati assembramenti di qualche centinaio di operai Rai davanti alla direzione dell'Ilva, assembramenti che sono in parte ancora in corso, e domani e venerdì FIM, CISL e UILM hanno indetto degli scioperi molto duri con blocchi stradali. Praticamente lo sciopero scatterà domani dalle 9 sino a conclusione del primo turno, alle 15, e invece secondo e terzo turno faranno sciopero per 8 ore, questo sia domani che venerdì. Estremo a vedere, la racconteremo anche domani questa vicenda. Grazie, grazie Domenico Palmiotti. Adesso io devo lasciare la linea al traffico, oppure c'è già la borsa pronta? Però vedo che ci sono dei problemi di collegamento col traffico. Allora cambiamo tema e ci occupiamo sempre del sud, perché stiamo parlando di Taranto, ma del rapporto Svimez. Come ogni anno, infatti, lo Svimez fotografa l'andamento dell'economia del nostro mezzogiorno. 349-238-6666 per gli sms. PIL che quest'anno calerà più che nella media nazionale, 2,6% la media, meno 3,5% invece quest'anno, e meno 0,2% nel 2013, quindi meglio. Ancora un'economia, un mezzogiorno in cui uno su quattro è senza lavoro, dice il rapporto Svimez, un mezzogiorno a rischio desertificazione industriale. Vice direttore dello Svimez, Luca Bianchi, buonasera. Buon pomeriggio. La sentiamo un po' basso. Mi scusi, domanda prima che me la facciano gli ascoltatori. Nel vostro rapporto voi parlate di un 25% di senza lavoro, sappiamo però, cioè, riuscite a considerare anche il nero, l'economia sommersa, oppure no? Consideriamo una, in parte sì e in parte no, perché sa come sa è molto difficile valutarla. La disoccupazione la facciamo sulla base delle indagini alle famiglie. In teoria sono varie domande incrociate, se uno ha svolto una qualche attività di lavoro anche irregolare e lo dichiara dovrebbe essere censito, però teniamo conto soprattutto in parte anche dello scoraggiamento, per quello sale anche al 27-28, anche 30% in alcune regioni. Poi voi avete anche notato come le manovre del 2010-2011, quindi diciamo Berlusconi-Monti, hanno pesato sul PIL nazionale per un 1,1%, però al sud per 2 punti percentuali. Come mai? Questo perché la parte, diciamo, dell'aumento delle imposte ha un impatto abbastanza simile, perché è in base, diciamo, alla popolazione e ai redditi, quindi l'impatto sul PIL è abbastanza simile. Il problema è stato il taglio degli investimenti. Dato che buona parte della manovra è stato taglio degli investimenti, si è tradotto in un taglio degli investimenti, questi hanno una capacità di attivazione sul PIL meridionale più alta. Cioè il problema che noi sottolineiamo non tanto che le manovre non andassero fatte, anche perché facciamo anche un'altra simulazione che se salta lo spread a livelli molto elevati tutta l'Italia ne pagava molto le conseguenze, il sud in particolare, ma il problema è la composizione, cioè di questo 2,1% di impatto sul PIL, l'1,7% è dovuto alla caduta degli investimenti, cioè l'economia meridionale è molto dipendente dagli investimenti pubblici. Nel momento in cui si bloccano gli investimenti pubblici, in un periodo di recessione degli investimenti privati, questo ha un effetto fortissimo sulla dinamica del PIL. Quindi un'economia, tra virgolette, più legata, non più assistita necessariamente, ma più legata agli investimenti pubblici, risente... Tutte e due, sia più, beh, più assistita anche, inevitabile, certo. Ma anche più dipendente dalla parte buona, diciamo, della spesa pubblica, della spesa... degli investimenti. Dato che siamo riusciti a tagliare più facilmente gli investimenti della spesa corrente, perché purtroppo è più facile farlo, e questo ha avuto un impatto molto forte sul sud. Ecco, ultima domanda. Voi però stimate che nel 2013 il PIL del nostro mezzogiorno cali intorno allo 0,2%. È un dato buono. È un dato, nel senso che la media nazionale dovrebbe essere meno 0,3%, quindi vuol dire quasi... È un ravvicinamento decisivo. Un po' perché il grosso delle manovre si scaricano sul 2012, un po' perché stimiamo una ripresa un po' della domanda mondiale anche del mezzogiorno. Certo è buono ma insufficiente, calcoli che il PIL meridionale nel corso della crisi, diciamo 2008-2012, ha perso il 10%, abbiamo un salto indietro del 10% che vuol dire circa 11-12 anni, siamo tornati ai livelli del PIL di 12 anni fa, è chiaro che per ricostruire quel livello di prodotto di ricchezza meridionale ci vorrebbero troppi anni, quindi noi chiediamo un intervento più, diciamo, una qualità dell'intervento pubblico molto maggiore per attivare processi di crescita. D'altronde i dati sull'occupazione giovanile che abbiamo mostrato oggi, sull'occupazione femminile in particolare, sono assolutamente drammatici. Noi diciamo addirittura che è a rischio la stessa tenuta sociale del Mezzogiorno. Il caso dell'Ilva è rappresentativo di questo effetto di desertificazione industriale, che vuol dire migliaia di addetti regolari che perdiamo, che sono quei poveri che ci sono di meno nel sud. Staremo a vedere, speriamo appunto che ci sia questo riavvicinamento, pur con un segno meno nel 2013. Importante quanto lei diceva però sul fatto che le politiche che tagliano gli investimenti poi pesano di più sul nostro Mezzogiorno. Grazie al vice direttore dello Svimez, Luca Bianchi. Grazie. 18 e 8 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare fra poco anche di quanto potremmo risparmiare, ripeto, al di là delle spese pazze, se solo vi fossero delle spese standard nelle regioni italiane. Vorrei però prima concludere l'approfondimento di borsa con Eleonora Micheli. Dicevamo, tra i titoli oggi deboli tutti gli energetici. Eleonora. Sì, esatto, sono infatti società che in genere sono indebitate. Oggi è andato male il settore delle utilities, la peggiore è stata a 2A, meno 4,7%, del resto ricordiamo che la società indebitata deve gestire il problema di allungare le scadenze del debito e proprio la scorsa settimana ha annunciato che ha in canna l'emissione obbligazionaria per 2 miliardi, ma certo se lo spread continua a salire e ci sono tensioni sui mercati obbligazionari non ne beneficia una società come A2A e quindi sono andate giù anche le quotazioni. E poi migliori e peggiori, dicevamo. Allora, miglior titolo Borgosesia più 8,20%, Pquadro più 6,20%, poi Enervit più 4,70%, peggior titolo Sintesi meno 14,60%, Telecom Italia Media sul risparmio meno 12,5%, Sopaf meno 11%, 11%, Olidata meno 10,70%, Crédit Agricole meno 6,74%. Di Enel però parliamo anche perché abbiamo raggiunto l'amministratore delegato dell'Enel Fulvio Conti. Tra l'altro su questo oggi l'Enel ha presentato alcuni progetti. Sentiamolo al microfono il nostro Jacopo Matano. Allora, noi siamo un'azienda che cura la crescita di valore, che consegna risultati solidi nel corso degli anni, che ha diversificato e reso in qualche modo molto più robusta, anche in presenza di una crisi economica come quella che viviamo, le nostre performance, e crediamo nella crescita di valore nel tempo. Decidono gli azionisti come quando disporre le loro quote. Quindi per favore rivolgete la domanda all'azionista ministero. Così appunto il numero uno dell'Enel sulla possibilità, come ha avanzato ieri dal sottosegretario De Vincenti, che possano essere cedute ulteriori quote di Enel e di Eni, decidono gli azionisti, avete sentito, come quando disporre della loro quota. E adesso le spese, ma non le spese pazze, quelle le abbiamo raccontate anche oggi nella nostra rubrica, le spese strutturali delle regioni italiane. C'è una bellissima inchiesta oggi su Sole 24 Ore, a opera di Gianni Trovati, su come sarebbe facile un risparmio di 1 miliardo e 300 milioni di euro se la spesa delle regioni italiane per abitante, perché è l'unico parametro aggregato che si può usare, attenzione che c'è un flash dell'agenzia, mi blocco perché i dipendenti dell'Assemblea regionale siciliana domani, giorno di pagamento delle retribuzioni, non percepiranno lo stipendio. I conti di Palazzo dei Normanni sono stati pignorati dai legali di un gruppo di 76 dipendenti ai quali il giudice del lavoro ha riconosciuto scatti di anzianità a partire dal 2005, quindi niente stipendio domani per i dipendenti dell'Assemblea regionale siciliana, che sono 19.000 se non ricordo, 18.000 ufficialmente, ecco, come già ne trovati qui accanto a noi, grazie, 18.000 ufficialmente. Ma dicevo, quello che emerge dal tuo pezzo è come se tutti spendessero la stessa media, 64 euro per abitante, risparmieremo 1.300.000.000. Come ci sei arrivato? Solo per il personale. Solo per il personale. Perché poi ci sono le altre spese, ma qui è l'applicazione dei fabbisogni standard e dei costi standard, di cui in Italia si parla da anni ma che ancora non hanno visto la luce. Su quel che riguarda la spesa per i cosiddetti consumi intermedi, cioè una brutta parola che vuol dire carta, computer, manutenzione degli uffici, affitti e cose del genere, i risparmi stimati questa volta non da noi ma dal commissario straordinario Enrico Bondi sarebbero di 2,5 miliardi all'anno. Allora arriviamo solo per queste due voci intorno ai 4 miliardi all'anno, il che è un, come dire, ci stanno abbondantemente tutti i costi della politica, su cui giustamente ci indigniamo in questi giorni, in queste settimane, che però rappresentano solo, diciamo così, la punta di un iceberg, perché c'è una correlazione molto stretta. Allora, più è ampia l'assemblea regionale, più sono i gruppi politici dentro, più ci sono uffici che gravitano attorno all'assemblea regionale, che creano altri uffici e così via, e quindi si espande una spesa che non è quella di indennità o le ostriche, voglio dire, i fondi ai gruppi eccetera, ma è proprio la spesa, appunto, dicevi bene, strutturale, diciamo così, per funzionare. Ci sono amministrazioni che, a parità di competenze, spendono il doppio delle altre. Ora, questi 4 miliardi che dicevamo, e anche questo è importante da dire, non si raggiungono se tutti fossero efficienti, ma semplicemente se tutti fossero al livello medio delle regioni attuali esistenti. Tra l'altro, un livello medio che, per esempio, sulla spesa per dipendenti, vorrebbe dire sostanzialmente la Lombardia spende 35 euro, no? Sì. E poi il Lazio 62, Piemonte 66. La media sarebbe 108, basterebbe portare le spese per dipendenti, che in Sicilia sono 340 euro, in Friuli 245. È tutto rapportato agli abitanti. Agli abitanti, certo. Per abitante. 244, Molise 241, Basilicata 171. Cioè, portare questa alla media, che è 108, farebbe risparmiare soldi, così come le spese del personale che tu citavi. La Sicilia ha 252 euro ad abitante, Molise 194, Sardegna 142, Friuli Venezia Giulia 140, Basilicata 94, Calabria 84. La media italiana è 64. Perché? Perché la Lombardia spende molto poco di personale per abitante, 17 euro, il Veneto 29, l'Emilia Romagna 34, la Liguria 35, la Toscana 38, la Puglia 41 e il Piemonte 45. Se tu portassi le spese di Sicilia, Molise, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Calabria e Umbria a livello medio... Esattamente, il criterio è lo stesso applicato dalla cosiddetta spending review, che ha appunto fatto tutta un'elaborazione statistica per vedere quali sono le regioni dove si annida maggiore spesa inefficiente. Ora bisogna passare dalla elaborazione statistica alla pratica e sono dolori. Ancora, le spese di funzionamento delle regioni nel 2011, Sardegna 197 euro per abitante, Sicilia 154, Basilicata 150, Friuli Venezia Giulia 146, Campania 113, Puglia 96. Faccio notare che la Liguria ha 27 euro per abitante di spese di funzionamento, e la Calabria 30, l'Emilia Romagna 36, la Lombardia 81, il Veneto 43. Anche qui, se si portassero le spese sulla media degli 87 euro, avremmo i risparmi. Il miliardo e tre è solo per le spese sul personale. È solo per le spese sul personale. Poi ci sono 2,5 sulle spese, diciamo, di funzionamento. Cioè, se tutte queste spese di funzionamento di personale venissero rapportate a livello medio, avremmo un risparmio di quasi 4 miliardi? 4 miliardi, e teniamo conto, giusto per fare le proporzioni, che i cosiddetti costi della politica, quindi indennità, rimborsi, fondi ai gruppi, eccetera, valgono tantissimo, ma valgono 860-850 milioni all'anno. Quindi siamo a meno di un quarto dei risparmi che si potrebbero ottenere solo con quelle due voci lì, perché poi c'è tutto il resto. Soprattutto c'è tutta la sanità. Perché l'altro dato, diciamo, importante da sottolineare è che questi numeri, un risparmio così imponente, 4 miliardi e più di tutta l'IMU sulla prima casa, si ottiene senza guardare la sanità, che conta per l'80% in media dei bilanci regionali e che ha dentro tutta una serie di problematiche ancora più grandi, ovviamente. Questi risparmi sono sul 20% dei bilanci regionali. Dopo le informazioni sul traffico vorrei però farti ascoltare una chicca che abbiamo fatto ascoltare già alle 17 su come funzionano alcuni rimborsi per le indennità di missione. Molti ci fanno notare che il consigliere del PDL avrebbe dovuto sporgere denuncia. Adesso vedremo, ricorderemo la vicenda. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, ultima parte di Focus Economia. Dunque, il ragionamento che ci ha appena fatto Gianni Trovati riguarda le spese standard, lo dico, non entra nel dettaglio di come vengono spesi questi soldi, anche perché abbiamo visto che tra il costo del design per il prototipo per avvistare gli scoiattoli di cui parlavamo ieri, la Regione Lombardia ha destinato 85.000 euro e altre cosucce di cui adesso vi racconterò. Poi, nonostante i costi standard, uno può comunque spendere, tra virgolette, in maniera creativa, diciamo così, i soldi. Però già sarebbe qualcosa risparmiare 4 miliardi di costo delle regioni a parità di servizio, perché parliamo di un servizio medio. Adesso però vi faccio riascoltare, per chi se la fosse persa, un dialogo avvenuto ieri, una trasmissione Iceberg, a Tele Lombardia, il deputato del PDL Roberto Rosso, ex sottosegretario al lavoro del governo Berlusconi e rinviato a giudizio per un'inchiesta su presunti finanziamenti illeciti per la sua campagna elettorale, fornisce una sua testimonianza di cosa gli è successo con un suo collega piemontese, che era ospite suo, se ho ben capito, al Sestriere. Io racconto una vicenda che mi è capitata personalmente. Ospito a casa mia, a Sestriere, un mio amico consigliere regionale. Questo qui vedo che tutti i giorni va a farsi firmare una cosetta da un documento da un consigliere comunale di Sestriere. Non so cosa serve sta roba. Poi alla fine della settimana bianca questo qui mi fa capire che ha guadagnato 5.000 euro in più. E dico, ma come hai fatto a guadagnare 5.000 euro per aver fatto una settimana bianca a casa mia? E mi spiega l'arcano. Cioè, ogni giorno il consiglio regionale del Piemonte paga l'indennità come se fosse andato a fare tutti i giorni consiglio regionale. Per il fatto di essere andato a fare la settimana bianca a casa mia, ma essersi fatto firmare da un consigliere comunale il fatto di essersi spostato a Sestriere. Poi paga l'indennità di missione a costo chilometrico, cioè da San Germano a Sestriere e ritorno tutti i giorni. Quindi questo aveva guadagnato quasi 1.000 euro al giorno per essersi venuto a fare una settimana bianca a casa mia a Sestriere. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, tre che più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, tre che più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. Beh, a parte il fatto che molti ascoltatori ci hanno detto, ma perché Roberto Rosso non ha denunciato? Io non so perché. Cane non mangia cane, non lo so. Oggi ho visto che all'ingresso all'assemblea, al Consiglio delle Regioni, dove appunto dovrebbe arrivare questa proposta al Presidente della Repubblica per ridurre gli stanziamenti, cioè tutti erano concordi nel dire la Polverini ha fatto male dimettersi, va bene, è un'opinione come un'altra, però insomma Gianni Trovati, quanto tu ricordavi oggi è la cornice, cioè riduciamo complessivamente gli stanziamenti perché non si capisce perché in una regione pro capite le spese per la regione per abitante siano di 250 o 200 euro e in un'altra di 17 o 29, e mi riferisco a Sicilia e Molise da un lato e Lombardia e Veneto dall'altro. Su questo, cioè, questa è la cornice, dopodiché bisognerà anche andare a investigare no? Le autocertificazioni. Oggi abbiamo scoperto che sostanzialmente il Consiglio regionale del Piemonte nel 2002 ha votato praticamente le autocertificazioni, le vorrebbe abolire, hanno consentito al consigliere assessore di intascare fino a 3.700 euro oltre lo stipendio base. Ma in Veneto c'è la vicenda dei 2.100 euro fuori busta paga, che a questo punto non si capisce che cosa servano e perché siano fuori busta paga. In Calabria c'è un'apposita legge regionale del 2002 che prevede che le spese dei capigruppo non devono essere nemmeno rendicontate, cioè nemmeno dire perché spese. E poi la vicenda bellissima del sta indagando la magistratura sia su Raffaele Lombardo, ex governatore, che su Francesco Cascio della Regione Sicilia, che sul presidente della Assemblea Regionale Siciliana Francesco Cascio. Lombardo ha avuto a disposizione nel suo fondo riservato 500.000 euro nel 2011, il 150% in più rispetto al 2010, erano 200.000. Francesco Cascio ha avuto quest'anno 340.000 euro, 38.000 in meno, per un fondo riservato. Dico, non capisco la necessità, l'esistenza, perché deve avere un fondo riservato. Cascio oggi sulla stampa di Torino ha detto: questi 380.000 euro, perché li hanno spesi tutti i soldi del plafond, non è che li ho usati in assistenza e beneficenza per la maggior parte. Qualche esempio, lo ripeto perché mi fa impazzire: se c'è la processione di San Giuseppe al paese di Sant'Agata di Battiati, concedo un contributo; se c'è un crocifisso da restaurare in quello di Trappeto, idem; se c'è un congresso di livello, offro il buffet, ma chi te l'ha chiesto? L'altro giorno ho sostenuto il torneo di badminton, regionale, alle volte una banda musicale. Sono piccole somme da 1.000 a 3.000 euro. È chiaro che però se ne fai 100 di operazioni così, arrivi o 150 a 380.000 euro, Gianni. No, sono tutte ottime cose, magari la prossima volta li fa con i soldi suoi. Comunque, quello che colpisce è il carattere plateale di queste cose. Perché per esempio sul rimborso di cui parlava Rosso, no? Sul rimborso chilometrico, se uno vuole divertirsi va sul sito della Regione Lazio, sezione trasparenza, e vede che lì il rimborso chilometrico, oltre all'indennità di trasferta bla bla bla, è pari a un quinto del costo della benzina per ogni chilometro. Vuol dire che la macchina consuma 5, cioè un litro di benzina ogni 5 chilometri. Ora probabilmente il SUV di Fiorito ha questo tipo di consumi, però non c'è nessuna azienda per esempio che dà un rimborso medio di un litro di benzina ogni 5 chilometri. Ma è tutto sul sito, noi l'abbiamo scritto anche più volte in passato, quando si fanno queste inchieste, un litro ogni 5 chilometri, ed è scritto nella sezione trasparenza del sito internet, quindi non c'è bisogno della magistratura. Noi l'abbiamo scritto sul giornale più volte queste cose, abbiamo scritto dei vitalizi dati agli assessori tecnici invece che abolirli eccetera, quando non scoppia proprio la polemica più nera, tu fai queste denunce ma rimangono nel vuoto, e quindi un mese dopo ne fai un'altra, ma non succede nulla. No, questa è anche una risposta che dai a chi dice: ma bene quello che state facendo, ma vi svegliate solo adesso. No, abbiate pazienza, a maggior ragione il Sole 24 Ore come quotidiano, Gianni Trovati, ma non solo, i colleghi di Norme del lunedì, è da mesi se non anni, vale anche per alcuni colleghi del Corriere della Sera o di Repubblica, che noi spesso queste fonti le troviamo, queste informazioni le troviamo sui giornali, non è che non siano state scritte. Il problema è che finché le scrivono i giornalisti è un conto, quando interviene la magistratura un altro, quando monta una e la frittata a parte, a quel punto tutti a correre a dire: taglieremo di qua, taglieremo di là, perché non avete fatto prima? Ma obiettivamente la stampa non è che non abbia vigilato. Vorrei però collegarmi velocemente con Palermo, dove c'è il nostro corrispondente Nino Madore. Buonasera Nino. Buonasera a tutti. Che cosa capiterà domani? Cioè, i 18.000 dipendenti della Regione Sicilia non verranno pagati? No, è una cosa un po' diversa. Ecco. Sono i dipendenti dell'Assemblea Regionale Siciliana. Ah, dell'Assemblea Regionale. Quindi del Parlamento, che hanno in corso intanto un'avvertenza con il datore di lavoro che costerà all'Assemblea solo 24 milioni di euro. E poi c'è tutto un problema che riguarda la liquidità che interessa di fatto gli stipendi. Ma la cosa più curiosa è che l'Assemblea, come tutti sanno, il Parlamento siciliano è il più antico Parlamento del mondo, rischia di essere pignorato, cioè di avere i giudici che bloccano, che vanno a sigillare. A questo punto, come battuta, mi verrebbe da dire, visto che la dotazione che ha il presidente dell'Assemblea regionale siciliana di 380.000 euro, visto che dice che fa beneficenza e assistenza, adesso potrebbe pagare gli stipendi, perché così intanto potrà aspettare anche la processione di San Giuseppe di Sant'Agata di Battiati, col massimo rispetto per la processione religiosa. Grazie a Gianni Trovati, grazie a Nino Amadore, e noi chiudiamo, come stiamo facendo ormai da qualche giorno, Sidney Lumet, Quinto Potere. Voglio che vi alziate proprio adesso e andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più! Radio 24. La passione si sente.